E a proposito di regime, adesso abbiamo anche l'onda tricolore, o meglio, più che l'onda, lo sbaffo tricolore, non saprei dire, una pennellata di rosso e una di verde poste con finta casualità a sottolineare l'autodefinizione di progressisti che si sono dati i candidati di quella che una volta si chiamava la sinistra. Niente di particolarmente grave, eh? I nomi passano, i simboli anche, l'unico problema, a quanto mi è sembrato di capire, che la prossima scheda elettorale, le prossime schede elettorali, pare che ce ne daranno una paccata, saranno alquanto affollate da tricolori. Sbaffi tricolori dei progressisti, bandiera tricolore del partito virtuale del povero Berlusconi, il quadrifoglio verde in campo bianco bordato di rosso di Alleanza Democratica, la fiamma tricolore dei neofascisti, anche se un po' rimpicciolita, più altre combinazioni più o meno astratte dei colori fatidici, come quelle che mi è parso di intravedere nei padelloni dell'Unione del Centro e del Centro dei Cristiani Democratici, che Dio li perdoni. È un'esibizione di patriottismo che, oltre a provocare negli elettori meno attenti qualche prevedibile problema di riconoscimento, potrà suscitare anche le malinconiche riflessioni di chi ricorda l'immortale definizione del dottor Johnson, per cui il patriottismo era ed è l'unico rifugio dei furfanti. Ma forse per quanto riguarda il simbolo del polo progressista, il problema non è esattamente quello. Oddio, di patrioti tra i progressisti non ne mancheranno di certo, e forse neanche di furfanti. Ma non credo, nessuno crede, che la scelta del nuovo simbolo sia stata determinata dalla necessità di esprimere quel valore. Mi sembra abbastanza probabile che il tricolore sia stato scelto perché, dovendosi conciliare, com'è normale in una coalizione, diverse problematiche simboliche, che esprimevano ovviamente un certo numero di interessi contrastanti, si è preferito compromettersi il meno possibile adottando quello in cui con meno difficoltà si riconoscevano tutti i coalizzati. Che poi a quanto pare non ci si sono riconosciuti in tutti per niente, ma quello è un problema di posti e di stipendi e naturalmente è tutta un'altra cosa. Però guardate che operazioni del genere sono sempre meno innocue di quanto sembrano. Cioè, è vero che i simboli sono simboli e assumono eminentemente il significato che uno gli dà, ma è anche vero che, come tutte le istanze che portano un significato, si radicano nella storia, nella coscienza, e cosa che pone certi limiti alla loro utilizzazione. Certi simboli hanno maggior forza evocativa di certi altri, perché per un motivo o per l'altro riescono a esprimere con maggior funzionalità il messaggio valoristico che gli è loro affidato. La sinistra, la compianta sinistra, nella sua storia bisecolare ne ha avuto certi di grande efficacia. Il sole che sorgeva sulle bandiere del primo movimento socialista indicava con molta chiarezza l'aspettativa dell'alba di un nuovo giorno, esprimeva la condizione aurorale di una forza convinta di avere dalla sua l'avvenire. La oggi vituperatissima falce martello, che in tutte le sue possibili varianti e combinazioni ha espresso la volontà rivoluzionaria delle masse oppresse del mondo intero, che vi prego di notare non è un valore da poco, che ne dicano e pensino gli oppressori e i loro servi, la oggi vituperatissima falce martello derivava la sua efficacia dall'immediatezza con cui evidenziava un programma politico di unità tra due classi sociali oppresse, gli operai e i contadini appunto, che fino allora avevano marciato malamente ciascuna per conto suo. In età più vicina a noi, anche la rosa stretta nel pugno del socialismo europeo, quella che in Italia è stata scippata dal solito imperecondo Pannella, indicava piuttosto bene un programma di rinnovamento. Il che probabilmente spiega perché Del Turco ha scelto la rosa per il suo malconcio partito, anche se omettendo il pugno chiuso ha distrutto il simbolismo d'origine, e a questo punto voglio proprio vedere come farà a cavarsela. Ed è anche vero che, come tutti gli artefatti umani, anche i simboli si usurano, modificano il proprio spettro semantico. La falce martello ha cominciato, voglio dire, tutt'altra cosa quando ha cominciato a campeggiare su bandiere e stemmi di Stato e sulle mostrine dei relativi corpi di polizia, e ci sono simboli che non funzionano proprio neanche all'inizio. Il garofano craxiano, in fondo, non funzionava perché non rimandava assolutamente a niente, salvo che una vecchia abitudine, anch'essa di natura simbolica, di portare all'occhiello un garofano rosso nella giornata del 1° maggio, era un metasimbolo a bassa funzionalità. Ma in fondo il povero Craxi qualcosa nel simbolo del suo partito doveva promettercelo, non potendo non credo, non potendo ricorrere da quella man rampante in campo altrui che secondo un vecchio traduttore di Walt Disney era l'emblema araldico della banda Bassotti. Ma lasciamo perdere e torniamo all'onda tricolore che saremo presumibilmente chiamati a votare. Dicevamo di supporre che sia stata scelta più che altro in quanto minimo comune denominatore, in quanto simbolo tutto sommato innocuo. E già questo, a essere sinceri, non ci sembra un granché, nel senso che a una sinistra unita, ai progressisti finalmente coalizzati, non chiederemmo per prima cosa l'impegno a non nuocere. E poi naturalmente il bianco, rosso e verde non è soltanto un'amabile combinazione grafico-cromatica. Da quando Napoleone fu scelto per le coccarde della Guardia Nazionale della Repubblica Transpadana, soprattutto è una bandiera nazionale. E all'innocuità della bandiera nazionale, ci dispiace, non riusciamo a credere davvero. La nazione è una struttura in definitiva metapolitica, il che vuol dire antipolitica, incarna un'unità di interessi e di valori sentite come contrapposti agli altri, unità a cui, ne converrete anche voi suppongo, è piuttosto stolto richiamarsi in un momento essenzialmente di divisione come quello elettorale. Correndo sotto quei colori, i progressisti non rinunciano a un'antica menzogna. L'antica menzogna di chi assicura che le loro proposte, le loro soluzioni, sono proposte e soluzioni che non fanno male a nessuno, anzi, che sono buone per tutti, per tutto il paese. È una menzogna, perché sappiamo benissimo che il paese è diviso tra interessi diversi, in alcuni dei quali ci riconosciamo e in altri, porca loca, no. Una menzogna perché in politica non ci sono soluzioni buone per tutte, tanto è vero che c'è sempre chi vince e chi perde, e anche se le menzogne ogni tanto possono aiutare a vincere, alla lunga creano più problemi che altro. Date retta a me, è sempre meglio lasciarle a Berlusconi. Ancora a proposito, ho visto che al buon Occhetto ne hanno dette di tutti i colori per aver definito la sua coalizione, finché c'era, una gioiosa macchina di guerra. Un mucchio di brave persone hanno scoperto che una macchina di guerra non può per definizione essere particolarmente gioiosa. Sono d'accordissimo, figuriamoci, ma per una volta, vi sembrerà strano, mi sento disposto a dare ragione ad Occhetto. Che in fondo si è limitato a sfruttare la vecchia figura retorica dell'ossimoro, quella che permette, come spiegavano una volta i manuali, di accoppiare due termini, di solito un sostantivo e un aggettivo, di significato contrapposto, per rafforzarne per contrasto la pregnanza espressiva. E visto che nell'uso latino-italiano l'accento in genere cade sul significato dell'aggettivo, Non ci sono grossi problemi. Mi spiego, Niccolò da Cusa definiva il suo pensiero una forma di dotta ignoranza, come probabilmente saprete, ma penso che si considerasse più dotto che ignorante. Toni Dallara, vi ricordate Toni Dallara? Ecco, Toni Dallara parlava dell'oggetto delle sue brame come di ghiaccio bollente, ma è evidente che temeva più il pericolo di scottarsi che quello di prendere freddo. Gioioso dunque, e gioioso sia. Io francamente sono più preoccupato di un altro ossimoro messo in circolazione da questi giorni da un'altra componente della macchina di guerra in questione, i Verdi, dico, che in un'apposita inserzione a pagamento sui giornali garantiscono di voler fare una rivoluzione onesta e gentile. Non so, che volete che vi dica? L'onestà e la gentilezza sono valori importanti, figuriamoci. I Verdi sono bravissima gente, anche se un po' avidi di posti a sedere, ma non riesco proprio a dimenticare la vecchia massima del presidente Mao, che ricordava come la rivoluzione non sia un pranzo di gala. Io non vorrei che ossimoro per ossimoro si scoprisse che certi progressisti non hanno la minima idea di farci progredire.